saremmo sicuramente molto più bravi di loro a fare quello che hanno fatto, perché se le cose che si vedono sono quelle che abbiamo appena elencato, io penso che questa gente che anche ieri a Porta a Porta ha dichiarato di essere professionista della politica, mi pare che abbiamo un livello scadente di professionismo della politica. La colpa è degli altri, è sempre degli altri, ma ne ha parlato un segretario come Casini, che è lì da quando aveva i calzoni corti e ha vissuto i vari governi, poi è stato l'opposizione, ma questa gente qua quando ha votato la legge per il rimborso spese dei partiti dov'era? Perché adesso alzano tutti la mano e tutti hanno la ricetta giusta per fare le cose in modo corretto, ma dov'erano fino a ieri? Cioè sono stati loro che fanno queste cose qua. Qui sembra un po' come quando i ragazzi, no, che sono tutti bravi ragazzi da solo, ma quando sono insieme tirano i sassi sull'autostrada o fanno danni collettivi. Il Parlamento mi pare che funzioni così, singolarmente tutte persone oneste. Poi quando sono là, se devono votarsi gli aumenti se li votano, se devono massacrare i cittadini con nuove tasse lo fanno perché... però l'importante è fingere di aver fatto delle riforme che hanno apparentemente ridotto i privilegi per la casta, ma le vere riforme, i veri tagli, i veri sprechi qui nessuno li vuol fare e questi qui non lo faranno, quindi le associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale, le partite IVA, se vogliono mantenere un ruolo di rappresentanza si devono dare da fare e devono andare, se serve, in piazza, come i miei colleghi dell'Umbria vogliono fare, perché non abbiamo alternative. Il problema è quando andremo a votare chi voteremo, perché qui non c'è un partito in questo momento che si possa ritenere di rappresentare il popolo degli italiani.